Buongiorno a tutti. Grazie, buona domenica e grazie per aver sfidato anche così numerosi il Moloch del blocco totale del traffico. So che ci sono persone che si sono avviate a piedi da ieri sera pur di arrivare qui per tempo. Grazie davvero. Spero che, diciamo, tanto interesse sia ripagato da questa lezione che esula un po' dagli ascolti, almeno nella prima parte, tradizionali che facciamo in queste lezioni di jazz, oltre la musica, perché parleremo di danza, parleremo di circostanze storiche particolari e parleremo di un repertorio che all'inizio sembra distante dal jazz, e cioè, come vedete dal sottotitolo, Follie e Sarabande Afro-Mediterranee, il jazz rinascimentale, da Corelli, Arcangelo Corelli, grande violinista e compositore a cavallo fra 600 e 700, a Gianluigi Trovesi. Jazz rinascimentale ha un senso? Naturalmente no, il jazz è una musica nata negli Stati Uniti agli inizi del XX secolo e quindi sembra avere, non ha storicamente niente a che fare col Rinascimento. In realtà, come scopriremo alla fine di questa lezione, ha a che fare come? Ha a che fare come, e naturalmente esso è legato, l'idea di un collegamento fra il jazz e certa musica rinascimentale è legata alla presenza massiccia di, ancora una volta, di africani nel mondo mediterraneo. Noi abitualmente pensiamo che, quando parliamo di tratta degli schiavi o di presenza degli africani, che non sono poi legati alla schiavitù, ma principalmente nel mondo occidentale, pensiamo alla tratta transatlantica che da Oriente verso Occidente, dall'Africa verso le Americhe, ha portato milioni di schiavi fra il XVI e il XIX secolo. In realtà gli africani sono presenti in maniera significativa già nei secoli precedenti, sia come dire, commercianti, viaggiatori, intellettuali, musicisti, sia anche come, ahimè, vittime di una tratta degli schiavi, di cui si parla di meno, che invece una tratta schiavistica che va da sud verso nord, una tratta transsahariana, che attinge agli individui dall'Africa subsahariana per portarli attraverso il Mediterraneo nelle grandi città commerciali del Mediterraneo, una tratta gestita principalmente dagli arabi per molti secoli, che addirittura aveva ramificazioni fino all'estremo oriente, fino alla Cina e al sud-est asiatico, e che in Italia, per esempio, ha investito città come Napoli, Genova, Pisa, Venezia, le repubbliche marinare, in sostanza, oltre a città importanti da un punto di vista commerciale come Napoli. Un dettaglio che vale la pena di sottolineare, perché noi siamo sempre bravi a puntare il dito contro spagnoli, portoghesi e poi gli inglesi, statunitensi, francesi che hanno fatto praticato la tratta degli schiavi transatlantica, ma anche noi abbiamo un nostro passato di schiavisti, basta andare a Venezia e scendere alla fermata del vaporetto della Riva degli Schiavoni, per ricordarsi appunto che lì era il punto in cui gli schiavi venivano portati a Venezia, schiavi africani. In realtà uno degli epicentri, uno dei luoghi in cui si concentravano soprattutto neri, ma non solo schiavi, nel mondo mediterraneo antico era Siviglia. Era Siviglia perché in effetti esisteva già da tempo una esplorazione, come vedete, dell'Africa da parte di portoghesi e spagnoli, dell'Africa occidentale, scendendo gradualmente giù verso le isole Canarie, di cui parleremo dopo, che sono uno dei primi luoghi che vengono scoperti, insomma, conquistati, le isole di Capo Verde, via via scendendo verso il Senegambia, la Nigeria. E quindi, man mano che si va giù fino all'Angola, i commercianti non solo catturano schiavi e li portano a Siviglia, che era, insieme a Cadice, uno dei posti fondamentali dove venivano smerciati poi gli schiavi, ma anche di individui che più o meno liberamente decidevano di intraprendere il viaggio verso l'Europa nell'ottica di scambi culturali e commerciali che c'erano nel corso del XV secolo. Certamente noi però sappiamo che già Dovete sapere che io a scuola andavo malissimo con le date, quindi continuo a leggere le date perché non me le ricordo. 1434, quindi pensate, 1434, prima della scoperta dell'America, 1434 abbiamo già gli schiavi a Siviglia, e pensate, nel 1503 già a Siviglia viene fondata una casa de contratación, cioè una specie di camera di commercio, per quanto sia terribile affermare questo termine, rispetto agli esseri umani, una camera di commercio dove venivano registrati, catalogati e smistati gli schiavi che arrivavano dall'Africa, schiavi che poi venivano venduti o nel resto del Mediterraneo o spediti nelle Americhe. Questo processo ha fatto sì che nel corso del 400, i primi del 500, elementi di cultura africana, musicale dal nostro punto di vista, si sono diffusi nel mondo ispanico e portoghese. Sono elementi che, come dire, si colgono in maniera molto netta perché evidentemente quello che la musica e soprattutto appare forme di teatro, di danza, di recitazione, di divertimento di questi neri dovevano essere talmente peculiari che alcuni compositori, musicisti sivigliani, quindi spagnoli, occidentali, hanno voluto cogliere le peculiarità di questa musica diversa che sentivano nelle bettole, per le strade, o addirittura sappiamo anche, ma lo vedremo meglio più avanti, nelle processioni anche delle festività, la diversità di questa musica fatta da queste persone che venivano dall'Africa. Ecco, tra l'altro questa mappa ci mostra bene come Lisbona, Siviglia e in generale l'Andalusia fossero il punto di ritrovo, di snodo di tantissimi traffici di individui che venivano dall'Africa, e anche l'iconografia ci ricorda che nelle città del Mediterraneo, come si vede per esempio in primo piano qui sotto su una barca, i neri addirittura, come vedete, non so se riuscite a vedere la persona con l'abito rosso in primissimo piano davanti sulla barca, addirittura un tamburello, quindi già associata forse come un cliché all'idea di musica che accompagna due amanti, come vedete, su questa barca in primo piano. Ce ne sono anche altri come commercianti, come lavoratori in giro per c'è addirittura un uomo, come vedete lì a cavallo, a destra, nero, ben vestito, come un cavaliere, quindi anche con un discreto grado di mobilità sociale possibile in quel mondo mediterraneo tra 400 e 500. Tant'è che cominciarono ad emergere dei repertori, vi dicevo, in cui i compositori si divertivano a mimare la musica degli africani che popolavano città come Siviglia. In genere il termine di questi brani musicali era un termine che alludeva all'Africa, erano i guineos, e io vorrei farvi ascoltare adesso un guineo, quindi guineos vuol dire della Guinea, non perché viene proprio dalla Guinea, ma come dire dall'Africa, no? Esotico. Vorrei farvi ascoltare un pezzo di un compositore sivigliano che si chiama Matteo Flecha il Vecchio, perché c'è anche Matteo Flecha il Giovane, che si chiama Negriglia a quattro voci, sottotitolo Sansabeia Gugurumbe. Il brano fu composto prima della metà del XVI secolo e in realtà poi fu pubblicato solo negli anni Ottanta, alla fine del Cinquecento, pensate un po' a Praga. Perché ci interessa questo pezzo di Matteo Flecha? Intanto, chi era Matteo Flecha? Matteo Flecha era il maestro di cappella della Cattedrale di Siviglia, cioè il musicista più importante di Siviglia. E quindi un compositore di un certo spessore, che ha pubblicato, di cui sono state, scusate, pubblicate postume, raccolte di pezzi vari, di natura molto diversa, tant'è che queste raccolte si chiamano ensaladas, cioè proprio così, insalate di pezzi diversi, dentro le quali ci sono anche pezzi ispirati alla musica africana. I guineos, compresi quelli scritti da Matteo Flecha, contenevano spesso, come elementi di allusione, oltre a degli elementi musicali che vi dirò dopo, contenevano nel testo allusioni al mondo africano con delle onomatopee che richiamavano in maniera come dei nonsense le lingue africane, le lingue bantu in particolare. L'espressione gugurumbe, che non vuol dire assolutamente nulla, è come una specie di, come posso dire, di africano maccheronico, ecco. Un africano, una lingua bantu maccheronica che viene evocata. In genere nei testi di queste Guineos il nero viene trattato secondo uno stereotipo che si sta già consolidando, cioè di un nero allegro, felice, che magari come in questo caso gioisce perché è Natale e il bambinello è nato e allora il nero fanciullesco gioisce, ovviamente cristianizzato, gioisce per la nascita del bambin Gesù. Cantando Gugurumbé. Il pezzo di Matteo Flecha è diviso esattamente in due parti. C'è una parte lenta, su cui poi vi dirò qualcosa dopo, c'è una parte lenta molto classica, molto europea, contrappuntistica, come se fosse un pezzo sacro. Poi a un certo punto inizia invece una parte apertamente africana, dentro la quale, vi dico subito, succede una cosa particolare, una cosa che viene direttamente dalla musica vocale bantu dell'Africa centro-occidentale. Cioè abbiamo, esattamente come nel gospel, un solista che canta un breve frammento melodico e il coro che risponde con quel frammento melodico. Botta e risposta. Ora, la botta e risposta è una cosa che si trova un po' in tutta la musica occidentale, anche nel Medioevo, ma qui quello che distingue il carattere del pezzo è il fatto che la botta e risposta è a riff, come nell'orchestra di Count Basie o come... anzi, più precisamente, esattamente come nel gospel. Breve frase del solista, risposta al riff del coro. L'esecuzione è del gruppo Hesperion 21 di Jordi Savall, il grande violista catalano. Rispetto alla partitura originale, loro hanno aggiunto, correttamente, secondo me, delle percussioni, perché evidentemente questa, essendo poi musica che evocava il ballo, la percussione aiuta a dare una specie di energia ulteriore. e ora inizia la seconda parte. Sansa bene cucurumbe, alla gandanga cucurumbe, alla gandanga cucurumbe. Sansa bene cucurumbe, alla gandanga cucurumbe. Mantenga vos a verse, mantenga vos a verse. Vamo verso un asimento, che spessere già vuoi star. Sato per nuova maia, sui che nieve da. Buona sa, buona sa, su camicio si coronda. Sadarano, sadarano, su semico di aia rosso. Sa hermoso, sa hermoso. Sato nieve, nieve da. Alanga, danga, cucurumbe. Danza veglia, cucurumbe. Alanga, danga, cucurumbe. Alanga, danga, cucurumbe. Sempre ciao e sta. Sato tempo malaya, su venite libera. Buono sa, buono sa, su camiso si coronda. Sadarano, sadarano, su semito fai e rosso. Sadarmoso, sadarmoso, su capiero di libera. Alanga, danga, cucurumbe, sansa vella, cucurumbe. Alanga, danga, cucurumbe, cucurumbe, cucurumbe. Molto prima della war music, i ritmi bantu, il botte e risposta corale dell'Africa centrale convivono con l'alleluia polifonico con cui si conclude il Sansabeya Gugurumbe di Matteo Flecha. In realtà elementi africani si trovano in molti altri brani dello stesso periodo, guarda caso tutti provenienti dall'area spagnola, in particolare da Siviglia. Uno dei più impressionanti e anche dei più affascinanti è un brano di Alonso de Mudarra. Alonso de Mudarra era un liutista della corte, uno dei maggiori maestri non solo del liuto ma soprattutto della vihuela. La vihuela è una specie di chitarra, che è quella che vedete nell'illustrazione della slide. E nel 1546 Mudarra pubblicò tre libri con vari brani per vihuela di varia natura. In gran parte sono, diciamo, di carattere più classico, comunque sono legate a danze di corte, danze popolari, pezzi polifonici, c'è una grande varietà di materiali. In mezzo a tutto questo materiale c'è però un pezzo che tra l'altro ha un titolo molto lungo, La fantasia che contrahase la arpa e la maniera di Ludovico, che è un pezzo che è completamente diverso dagli altri. Che cosa c'ha di speciale? Beh, adesso che lo sentirete, sembra un misto tra un ragtime, un pezzo di Bob Dylan, una ballata americana, un pezzo country di finger picking, un pezzo per banjo. È una cosa impressionante. È imbevuto di ritmi africani e di ritmi ragtime. Io direi, prima di sentirlo, e poi ci chiediamo che cosa vuol dire suonare l'arpa alla maniera di Ludovico. E chi era Ludovico? Africani. un pezzo del 1946, ma del 1546, impressionante. Perché Mudarra, che poi non ha scritto nulla di simile in tutti gli altri decine di pezzi pubblicati in quell'anno, scrive il pezzo in questo modo e lo dedica a Ludovico? Un musicologo colombiano ha scoperto chi è Ludovico. Ludovico era l'arpista del duca di Calabria. Suonava l'arpa diatonica, l'arpa di Viggiano, quella che si trova ancora oggi in Basilicata e che si ascolta anche nei festival di musica popolare nel meridione d'Italia. E Ludovico era famoso, era diventato noto nella sua professione per fare su quest'arpa degli effetti più che ritmici, melodici, sui quali adesso non mi addentro perché è una cosa un po', diciamo, sostanzialmente creare questi effetti... creare questi effetti cromatici che Mudarra riproduce facendoli sull'arpa diatonica, che è una cosa piuttosto difficile. Ma c'è di più: Ludovico era l'arpista del duca di Calabria, il quale per ragioni politiche fu costretto all'esilio intorno alla metà del Cinquecento e si rifugiò, indovinate dove? In Spagna, dove evidentemente Mudarra, che suonava uno strumento affine a quello, comunque uno strumento a corda, deve aver incontrato Ludovico e deve essere rimasto impressionato dallo stile di questo musicista. Ludovico, tra l'altro, era stato anche a Napoli, quindi era un musicista di cui non conosciamo il cognome, era un musicista la cui cultura era imbevuta di mondo mediterraneo, e evidentemente Mudarra, quando ha cominciato a utilizzare questi ritmi africani, che poi sono gli stessi della musica cubana, sono ritmi bantu che si trovano a Cuba, nel ragtime, e ahimè anche nella musica del Cinquecento, evidentemente Mudarra, imitando Ludovico, ha imitato un musicista il cui stile doveva essere imbevuto di elementi africani che noi oggi conosciamo come, riconosciamo come elementi ragtime, cubani, da banjo quasi. E quindi è piuttosto impressionante questo aspetto. Noi sappiamo, tra l'altro, che in questo periodo la presenza dei neri, alla metà del Cinquecento, a Siviglia si fa sempre più massiccia, ma ormai siamo anche in un'epoca in cui la Spagna manda schiavi africani nelle Americhe e manda soprattutto schiavi bantu, cioè che vengono dalle zone del Congo, dell'Angola, diciamo a sud del Sahara, verso le Americhe. Non a caso in questo periodo noi troviamo un sacco di parole bantu che compaiono nel linguaggio dei documenti dell'epoca, laddove ci sono soprattutto colonie spagnole. Per esempio a Cuba troviamo parole come mambo, rumba, samba, conga, bongo, sono tutte parole bantu, e a New Orleans, ne abbiamo parlato in una lezione di jazz forse un paio d'anni fa, a New Orleans compare per la prima volta alla fine del Settecento, New Orleans che era colonia spagnola, la parola tango, altra parola bantu. Una parola nuova che compare in documenti dell'epoca è la parola sarabanda, che viene attestata per la prima volta a Panama nel 1539. Ora, la sorpresa di sapere questa cosa, che in realtà è scritta su qualsiasi storia della musica, enciclopedia della musica, sta nel fatto che spesso nelle storie della musica la sarabanda viene indicata come una danza europea, qualcuno diceva in passato di origine araba, mentre la prima attestazione si trova in una colonia spagnola nelle Americhe. Lo studioso Robert Farris Thompson ha perfino, perché l'etimologia è incerta, ha suggerito però un'etimologia piuttosto convincente. Un'etimologia bantu. Nsala, che vuol dire spirito, banda, che vuol dire iniziare, liberare. E quindi sarabanda sarebbe qualcosa come liberiamo lo spirito. Questa è un'etimologia bantu proposta da questo studioso che si chiama Robert Farris Thompson, che è, come potete immaginare, è una etimologia rivoluzionaria, perché ci connette immediatamente, che so, le sarabande di Bach o di Handel al mondo bantu. Introduce nel linguaggio occidentale parole di origine africana, soprattutto da un punto di vista musicale. La etimologia di Thompson è tutt'altro che campata per aria, perché noi sappiamo che nei riti cubani di santeria o nel rito di Palo Monte, ci sono vari tipi di riti di origine africana, la parola sarabanda all'interno di botte e risposta, per esempio in spagnolo, è utilizzata regolarmente. Il solista che dice sarabanda medami, sarabanda paracurà, sarabanda medami, sarabanda paracurà. Viene evocato Shango, che è un dio del ferro, la sarabanda, sarabanda in alcuni riti cubani è anche Nsalabanda, è anche il nome di uno spirito legato al mondo uno spirito del ferro, uno spirito che guerriero, che tra l'altro uno spirito guerriero che si manifesta dentro un rito che si chiama Mambo. Vi suona familiare, immagino. Ancora oggi c'è a Cuba un rito che si chiama Nkisi Sarabanda, che ha tra l'altro questi giochi di croci di terra, cielo, incrocio degli inferi, cielo, il rapporto con la terra, e queste croci che sono di origine africana, appunto un rito che si chiama, da Cuba occidentale, che si chiama Nkisi Sarabanda, e che gli spagnoli portarono nella loro lingua utilizzando la Z al posto della S, Zarabanda si trova di solito scritto. Questa è, diciamo, la traslitterazione che troviamo. Quindi dobbiamo ricordarci che, dobbiamo affermare con forza che la parola sarabanda, che associamo di solito alle danze europee, in realtà è una danza di origine probabilmente, chiamiamola così, afroatlantica. Non sappiamo esattamente dove è nata. Sappiamo però che a Cuba la parola sarabanda era usata e attraverso i movimenti avanti e indietro dalla colonia spagnola Cuba verso la Spagna, noi sappiamo già che nel 1583 la sarabanda era praticata a Siviglia, in tutta la Spagna. Perché lo sappiamo? Innanzitutto sappiamo che non solo era una forma musicale, ma era una danza. Sappiamo che era una danza perché nel 1583 troviamo una... troviamo una legge che proibisce la sarabanda. Cioè, praticamente, c'è una legge che dice che chi viene sorpreso, ovviamente suggerita dall'Inquisizione, chi viene beccato per la strada a ballare la sarabanda, se sei una donna c'è l'espulsione dal regno, se sei un uomo ci sono frustate e prigione. Perché la sarabanda era considerata una danza peccaminosa, una danza molto erotica. Non sappiamo se questa legge fu mai applicata, probabilmente no, anche perché abbiamo testimonianze successive del fatto che la sarabanda veniva allegramente ballata per la strada, spesso in gruppo, cioè la sarabanda è una danza a due, come vedremo fra poco, ma questa danza di coppia avveniva in contesti festosi di massa, per cui ci potevano essere 200-300 persone che poi tutte in coppia danzavano per la strada la sarabanda. Che tipo di passi c'erano? Lo sappiamo da un dizionario apparso nei primi del 600 di tale Covarrubia de Orozco, che la descrive così, seguiamolo attentamente, dice: è vivace e lasciva. Vivace quindi vuol dire che il tempo è rapido, lasciva vuol dire che la gestualità è apertamente erotica, poiché danzata con impudico scuotimento del corpo. Ora non vi faccio l'impudico scuotimento del corpo, non vorrei turbare, non so se ci sono minorenni in sala. Impudico scuotimento del corpo, quindi io mi immagino per esempio una cosa tipica di molte danze che vediamo anche per esempio in Brasile, il busto, no? Che si agita, che si muove, o il movimento del bacino. Dice: sebbene siano agitate tutte le parti del corpo, quindi immagino, no? Movimento delle gambe, delle braccia, del bacino, del busto, sono le braccia a compiere i gesti più ampi, mentre suonano le castagnette. Sembra una descrizione del flamenco. 1611, se non vado errato, questo dizionario. Quindi anche se non abbiamo, per esempio, molte testimonianze iconografiche, per questo non vi faccio vedere delle immagini, La descrizione che ne fa questo dizionario è molto evocativa. Io mi immagino abbastanza bene questo tipo di di movimento. Tra l'altro, che la danza implicasse un contatto fisico ci viene detto da dei versi di Giovan Battista Marino, il quale a un certo punto scrive in una sua poesia: cenni e baci, parlando di Sarabanda, cenni e baci di segna, or quella or questi, baci di segna, fanno i fianchi ondeggiar, ecco l'impudico scodimento del corpo, non lo faccio anche qui, fanno i fianchi ondeggiar, scontrarsi i petti, e qui mi viene in mente l'umbigada brasiliana, dove non solo il petto ma anche il bacino tende a avvicinarsi dei due partner in una, ovviamente mimare l'atto sessuale, socchiudono gli occhi e quasi infra se stessi, come persi dentro se stessi, vengono danzando agli ultimi complessi, complessi nel senso di amplessi, di abbracci. Notevole, la descrizione ovviamente in questo stile così rifinito di Marino, ma è evidente che i fianchi che ondeggiano, i petti che si scontrano, gli occhi che si chiudono in questa specie di estasi, di trance, arrivano poi a questi ultimi abbracci che vi lascio immaginare cosa possano essere. E musicalmente com'era la Sarabanda? Non spaventatevi per la notazione, adesso vi faccio sentire cosa vuol dire. Uno studioso americano ha fatto una specie di sintesi della Sarabanda. La Sarabanda consisteva sostanzialmente di un basso che si ripete sempre uguale. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O meglio. No, scusate. Questo ritmo dovrebbe suonarvi, anzi, così come lo scrive Hudson, avete presente America di Leonard Bernstein da West Side Story? È questo ritmo qui. Vi do la dritta numerica, si conta così. 2 volte 3, 3 volte 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Questo è un ritmo bantu. È Africa al 100%. È un ritmo che usavano anche gli antichi greci, ma che ha origine, si chiama hemiola, che ha origine in Africa. Ta ta ta ta, è una alternanza di 3 e 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? È proprio un gioco matematico sul 3 e il 2. La parte in 3 è più rilassata. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La parte in 2 è più tesa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Questa è la Sarabanda. Tutto qua. Da un punto di vista ritmico. E ci sono questi accordi che si ripetono, che venivano di solito suonati con chitarre, liuti, vihuele, qualsiasi strumento ad arco soprattutto, perché ci fa gli accordi. E sopra che succedeva? Sopra si cantava, si improvvisava, potevi improvvisare con un violino, potevi vocalizzare, tanto è musica da ballo, per questo è anche ripetitiva. La gente balla e sotto si accompagna in maniera frenetica, immaginiamo anche con le percussioni, quello che succede sopra. Agli inizi del 600 la parola Sarabanda fu cominciò a essere pubblicata, scusate, perché le prime Sarabande furono pubblicate a stampa nel 1606 da tale Girolamo di Montesardo, era pugliese, furono pubblicate a Bari e consistevano semplicemente, lo vedremo tra poco, in delle piccole parti di accompagnamento. Ma prima di guardare cosa ha pubblicato Montesardo, perché questa era musica di tradizione orale, non è che la gente comprava lo spartito, musica che si balla per la strada, vi faccio sentire un esempio di Sarabanda dell'epoca ricostruita. È un pezzo di un anonimo che in realtà porta il titolo di Ciaccona. La parola Sciaccona, la spagnola, più tardi Sciaccona in italiano, sapete ce n'è un'altra di Bach famosissima, che si basa sullo stesso principio che stiamo per ascoltare qui, e non è altro che un sinonimo di sarabanda. Semplicemente la parola agli inizi del Seicento cadde in disuso e divenne di moda un'altra parola, ma la musica era identica, il ballo era identico. Il testo della Sciaccona che stiamo per ascoltare, sempre suonata dal gruppo Hesperion Venturo di Jordi Savall, è un testo molto semplice in spagnolo, come molti pezzi da ballo, descrive il ballo. Che bello, balliamo la Sciaccona, andiamo tutti insieme, balliamo la Sciaccona, divertiamoci a ballare la Sciaccona. Sentirete questo ritmo africano e i tre accordi che ci sono sotto. Thank you. Piccolissimo dettaglio tecnico che però non è indifferente. Quando Montesardo pubblicò nel 1606 i giri di Sarabanda o Ciaccona, che l'abbiamo detto è la stessa cosa, non pubblicò altro che una cosa come il primo rigo, cioè il pezzo è tutto lì, quello che avete sentito sta tutto là, perché consiste semplicemente in un basso su cui chi suona deve saper mettere gli accordi. No, quel gioco di 3 e di 2, tutto qua. E poi uno sopra deve metterci magari gli accordi. Scusate. Variando in mille modi, improvvisandoci sopra, cantando e ballando, ovviamente. Perché vi faccio vedere questa cosa? Perché chi pratica il jazz sa che quando si suonano i pezzi di jazz si ha davanti una cosa molto simile. Degli accordi, tutt'al più una linea melodica, e basta. Un basso su cui realizzare la musica in tutta la sua interezza. Le ciaccone e le sarabande del tra 5 e 600 si suonavano e si scrivevano esattamente come i pezzi di jazz oggi. Uno scheletro con cui da riempire. Le stanghette all'insù e all'ingiù non sono messe a caso. Sapete cosa sono? Sono il cosiddetto rasgueado, quello che conoscono bene i chitarristi di flamenco. Cioè praticamente la direzione della schitarrata. Gambo in giù, la mano va in giù. Gambo in su, la mano va in su. E questo crea un effetto ritmico particolare. Oltre al ritmo 3 e 2 c'è questo accento diverso dato dalla posizione della mano che sale e che scende. Sarabande, ciaccone, eccetera, divennero incredibilmente popolari. Si suonarono per tutto il 500, per tutto il 600. Vedremo che pian piano entrano anche nel mondo colto. Di lì si arriva alla ciaccona di Bach, che praticamente è fatta più o meno come il pezzo che abbiamo sentito prima, ma in chiave, come dire, più colta, più raffreddata, raggelata. E voglio farvi vedere, salto un esempio, altrimenti non facciamo in tempo, voglio farvi vedere un altro esempio di giro su cui si improvvisa, che ha un nome non casuale, canario, cioè evidentemente una musica ispirata a danze, melodie, movenze delle isole Canarie. Il canario più famoso, quindi africane, il canario più famoso l'ha scritto questo bel giovane che vedete ritratto, che era di origine tedesca ma poi naturalizzato italiano e che visse per tutta la sua vita praticamente qui a Roma. Giovanni Girolamo Capsberger, nato nel 1580, morto nel 1651, che soprattutto nei primi anni del Seicento, poco più che ventenne, pubblicò una serie di pezzi per vari strumenti a corda. Tra questi ce n'erano alcuni, uno è passato alla storia, si chiama L'arpeggiata, bellissimo, vediamo se poi abbiamo il tempo di ascoltarlo, ma uno dei più impressionanti è il canario, che praticamente ha quegli stessi tre accordi della sarabanda e si basa esattamente, non sto scherzando, sullo stesso principio di un ragazzo che va sulla spiaggia, suona quattro accordi e canta con gli amici. Cioè l'idea che ci siano tre, quattro accordi su cui da suonare, sempre gli stessi, su cui si improvvisa liberamente. È lo stesso principio con cui è costruita la musica di Guccini, per dire. Magari non c'è l'improvvisazione, ma la melodia di quei quattro accordi sono gli stessi. La melodia è preparata, nella musica, nel canario, tutto viene più improvvisato. Cioè stiamo scoprendo lentamente che, come sentirete adesso nel canario di Capsberger, la musica da ballo tra 500 e 600 di ambito mediterraneo si fondava sugli stessi principi su cui si fonda l'improvvisazione jazz, un giro di basso, di accordi su cui si improvvisa, ed era basata in gran parte appunto sull'improvvisazione, su questi principi. Sentite. Sembra la base di un pezzo di musica leggera contemporanea, no? Esattamente lo stesso principio, tre accordi su cui improvviso. Come vedete il principio è identico ed emerge in realtà proprio alla fine del Cinquecento, inizi del Seicento. Questa musica era suonata principalmente da persone, salto un altro esempio, era diffusissima ed era suonata molto spesso da persone prive di alfabetizzazione musicale. Allora, queste persone che non sapevano leggere la musica si compravano un libro pubblicato in Spagna alla fine del Cinquecento, Chitarra in spagnola, Juan Carles Amat. Questo libro aiutava l'analfabeta musicale a suonare i pezzi che avete sentito fin qua. Praticamente andava alla Ricordi spagnola, alla Recuerdos, diciamo così, questa è la peggiore battuta del mese. Siamo arrivati al 30 dicembre, al 30 gennaio, 31 oggi, me la posso permettere. alla Recuerdos di Madrid, comprava chitarra spagnola di Amat e con questo manuale l'analfabeta musicale che suonava a orecchio sapeva dove mettere le mani sulla chitarra per poter suonare quei giri, o perché magari comprava le stampe di Montesardo per vedere come si suonavano le sarabande. Una pagina contiene una, come dire, delle istruzioni, sembra complicatissimo, in realtà dovete immaginare che quei numeri indicano la posizione delle dita sulle corde. Quindi, una volta conosciuto il sistema, il risultato era che uno poteva suonare una serie di accordi e collegarli fra di loro. Sembra complicato per chi non è addentro la musica, ma è interessante perché ci fa vedere come attraverso il sistema dei numeri uno poteva mettere le mani sulla chitarra e sapere come muoversi. È interessante notare due cose. Uno, vedete che i numeri sono posti in cerchio. Nella prima metà, per gli specialisti, sopra ci sono le tonalità maggiori, sotto le tonalità minori. Ma non è questo importante. L'importante è il cerchio. L'idea di ordinare gli accordi in un cerchio, di solito, viene formalizzata nel Settecento da un grande teorico e compositore che si chiamava Jean-Philippe Rameau. In realtà stiamo scoprendo che alla fine del Cinquecento Amat aveva già pubblicato questa struttura circolare, che poi ancora oggi si studia nei conservatori quando uno studia armonia, si chiama circolo delle quinte, e serve appunto a capire come si collegano fra di loro gli accordi. Stiamo dicendo cioè che, contrariamente a quello che si crede, non è nel mondo colto che si è andato definendo il sistema del collegamento degli accordi, ma è nel mondo popolare. E per suonare cosa? Pezzi contrappuntistici, sinfonie? No, quattro accordi per stare con gli amici al bar. La cosa impressionante, sapete qual è? Che il manuale di Amat è stato ristampato fino alla metà dell'Ottocento. Questo vuol dire che se è stato ristampato la gente lo comprava. Lo comprava per fare che? Per suonare quei quattro accordi la sera sulla spiaggia, a parte gli scherzi, o con gli amici a casa. Cioè, la pubblicazione per 2 secoli e mezzo del manuale di Amat ci dice una cosa che le storie della musica non ci dicono mai, e cioè che alla fine del Cinquecento le persone si divertivano facendo musica, suonando degli accordi tutti insieme, diciamo degli accordi su cui improvvisavano, e che questa pratica di improvvisare sugli accordi è durata, almeno a livello popolare, per 2 secoli e mezzo, finché la gente ha avuto il bisogno di comprare per 2 secoli e mezzo il manuale di Amat. Mentre Beethoven, Mozart, Wagner scrivevano la loro musica, le persone comuni a casa strimpellavano la chitarra, soprattutto in ambito mediterraneo, perché il manuale di Amat era in spagnolo, quindi veniva letto sicuramente anche a Napoli, per esempio, nel Regno di Spagna, in altre parole. Le persone comuni suonavano, non suonavano certo Beethoven a casa, ma prendevano la chitarra e con il manuale di Amat si destreggiavano a suonare semplici accompagnamenti su cui cantare, improvvisare e ballare. Queste pratiche sono di origine afro-mediterranea o afro-atlantica. E vedete come sono simili alla pratica del jazz. C'è un ultimo elemento impressionante, e cioè, questa è una cosa un po' più specialistica, in genere nelle storie della musica ci viene detto che la tonalità, cioè il fatto che io posso definire chiaramente gli accordi, si va definendo nel corso tra la fine del 600 e i primi del 700. Tonalità, cadenze, movimenti chiari degli accordi. Prima la musica invece era, si diceva, era modale, era molto più ondeggiante, non aveva una direzione precisa, e gli accordi non c'erano, era tutto molto più fluido. Questo è quello che ci dicono le storie della musica. Qui stiamo scoprendo invece che la gente suonava gli accordi alla fine del 500 per fare danze afro-mediterranee. Anche l'origine della tonalità, adesso arriva la polizia e mi porta via, anche o la neuro, anche l'origine della tonalità è legata al mondo delle danze afro-mediterranee o afro-atlantiche. Per riassumere, prima di andare avanti, La sarabanda, la ciaccona, eccetera, sono danze di origine afroatlantica e di pratica popolare. Ve le riassumo se volete fare i fighi con gli amici quando andate fuori. Due, si basano su brevi giri di accordi su cui si improvvisa e si danza, con ritmi e gesti di ascendenza africana. Tre, gli accordi delineano la moderna tonalità, un secolo prima che essa si affermi nella musica colta. 4. Le sarabande delle suite barocche sono il residuo raffreddato e colto di una pratica popolare passata di moda. Cioè, quando poi andate a sentire le suite di Bach per violoncello e trovate la sarabanda, quella sarabanda non è altro che una versione stilizzata, portata nelle corti, dove si ballava la sarabanda, ma non certo, come dice Giovan Battista Marino, toccando petto con gli occhi chiusi e facendo degli strani abbracci, ma in modi molto più distaccati, formalizzati, depurati dell'elemento peccaminoso erotico e soprattutto rallentate. Sì, perché voi sapete bene che le sarabande delle suite di Handel, di Bach, eccetera, sono lente, sono diventate lente. Erano danze frenetiche, addirittura se la ballavi potevi finire in galera, che si sono raffreddate, sono diventate materia di, come dire, riflessione colta, di corte, e hanno perso quel carattere ribollente, vitale, che viene dal mondo popolare. Le sarabande e le ciaccone non erano l'unico repertorio di questo tipo. Se ne stava affermando nel corso del XVI secolo, nel corso del Cinquecento, un altro, scusate, credevo fosse partito, il cui nome è tutto un programma. In portoghese, la folia. La follia. Già una danza che si chiama così, chissà che ci lascia immaginare, sì, perché era una danza che portava la trance, la follia, ti fa diventare pazzo. Come dice Giovan Battista Marino, chiudi gli occhi e poi non si sa dove vai a finire. La follia consiste, funziona esattamente come la sarabanda. Cioè c'è un giro di accordi, solo che questo giro di accordi nella sarabanda è fatto di tre note. Lo ricordate? Quelle che fa nel canario di Capsberger. Tutto qua. La follia invece ha un giro molto più articolato, che circolava già tra il 4 e il 500 nel mondo mediterraneo. Per esempio, è una cosa un po' da specialisti, ma forse qualcuno si è accorto che la parte lenta di Sansa Beia Gugurumbè si basa sul giro della follia. Addirittura tutto il pezzo di Mudarra, quello che imita l'arpa di Ludovico, è basato sul giro della follia. Ma intorno al 500 questa danza assume un suo carattere specifico tra Portogallo e Spagna ed è anche questa una danza estremamente vivace, si chiama follia, è associata a movimenti corporei di tipo africano e probabilmente porta quasi alla trance. Com'è la follia? Gli accordi della follia sono più o meno questi. Questa è la prima parte, la seconda parte. Ok? Su questo giro e su questa semplicissima melodia si improvvisa a ruota libera. Per esempio in queste follie anonime di primi 600 suonati sempre da Hesperion 21 di Jordi Savall. Thank you. improvvisazione. La grande differenza nel destino della Sarabanda, tra il destino della Sarabanda e il destino della Follia, è che la Sarabanda poi non ha mai trovato uno sbocco in ambito colto che riflettesse quello che succedeva in chiave popolare. Cioè abbiamo visto che la Sarabanda, quando è entrata in ambito colto, ha praticamente perso l'anima, si è raffreddata, è diventata lenta, è diventata un'altra cosa, e poi quando quel mondo si è estinto la Sarabanda ha subito lo stesso destino. La Follia invece ha continuato ad essere praticata ancora, come vedremo nell'ultima parte di questa lezione adesso, fino ad oggi, con questo giro e questo spirito, perché non solo si è tramandata a livello popolare, ma ha trovato un canale in chiave colta, scritta, quindi in cui il tramandare attraverso lo spartito rende più facile conservare certi tratti, una parte scritta che però non ha tradito lo spirito popolare. E l'uomo chiave in questo dialogo fra mondo popolare e mondo colto, come avete sentito qui, è un romagnolo, non è Casadei, ma è Arcangelo Corelli, uno dei più grandi violinisti della storia, un grande innovatore nella storia del violino e della composizione, che nel 1700, anno tondo, pubblicò una raccolta di 12 sonate per violino e basso continuo. Basso continuo è un accompagnamento che può essere fatto da 1, 2, 4, anche più strumenti, diciamo gli accordi sotto. La dodicesima sonata consiste in una serie di variazioni sul giro della Follia, quello che avete appena sentito. Ma la grande differenza fra quello che avete sentito, che era una ricreazione di un'improvvisazione di tipo popolare sul giro della Follia, e la versione di Corelli, è proprio la differenza che può passare fra quello che succede a livello di improvvisazione popolare e quello che succede a livello di compositore colto che scrive quelle variazioni. Corelli cosa fa? Prende il giro della Follia, scrive una serie di variazioni per violino, alcune delle quali di eccezionale virtuosismo, cioè adeguate a livello innovativo della sua abilità strumentale. Corelli è stato un uomo che veramente ha cambiato la storia del violino, oltre che della composizione, però mantenendo in un certo senso il rapporto col mondo popolare. Alcune di queste variazioni sono più colte, addirittura contrappuntistiche, più severe, altre sono più rilassate, altre sono estremamente vivaci, virtuosistiche, con un carattere di danza. In altre parole, la sonata opera 5 numero 12, detta La Follia, non è altro che una serie di improvvisazioni jazz su giro armonico, però scritte, non improvvisate. Forse Corelli avrà improvvisato delle cose a casa sua, avrà ascoltato delle cose in giro e poi ha deciso, da compositore più che da musicista popolare, di scrivere queste cose e di dargli una forma più precisa. Ascoltiamo per intero le variazioni di Corelli sul giro della Follia, perché sono una delle pagine di svolta nella storia della musica, nonché nella nostra storia dei rapporti fra composizione e improvvisazione, o di come si ricompone ciò che prima era improvvisato. La base su cui poi si improvviserà. prima variazione. Rovesciato, quello che faceva il violino lo fa il basso, quello che faceva il basso lo fa il violino. Thank you. più popolare spagnola, su quella più corta. Tutti stili diversi. La Follia di Corelli, pubblicata nel 1700, non è l'unica che ci è pervenuta per iscritto, però è la più autorevole, quella che poi ha funzionato come un punto di riferimento. Pensate che fu talmente importante, fu percepita talmente come una svolta, che non c'è stato violinista che si è affermato di lì a poco che, dovendo pubblicare poi le sue sonate, le sue composizioni per violino, non si cimentasse poi con le variazioni sulla Follia. Per esempio Vivaldi, quando pubblica la sua Opera 1, cioè la prima serie di 12 sonate per violino e basso continuo, indovinate com'è la dodicesima, è una serie di variazioni sulla Follia sul modello corelliano, anzi per certi versi sono anche più belle e sono di grandissimo fascino, vi suggerisco di ascoltarle. Lo spartito corelliano è diventato, come dire, il paradigma di come si improvvisa, di come si scrivono le improvvisazioni sul giro della Follia, che intanto venivano praticate come improvvisazioni a livello popolare. Ancora nel Novecento Sergei Rachmaninov, per esempio, ha scritto una serie di variazioni sul giro della Follia ispirate al modello corelliano. Ma non è nella musica classica del Novecento che il giro della Follia è sopravvissuto, bensì nel jazz. Soprattutto in mano a musicisti particolarmente consapevoli del fatto che tra il jazz e la musica tra 5 e 600 ci sono delle sorprendenti risonanze. Il musicista che più di tutti ha esplorato con abilità, con cultura, con intelligenza e soprattutto creatività musicale è un italiano ed è il grandissimo Gianluigi Trovesi, che ha fatto della fusione tra musica barocca rinascimentale e non solo di tipo ispanico come quella che stiamo esplorando qui e jazz uno degli elementi chiave della sua poetica. Ed è una cosa di grandissima originalità che per esempio non trovate nel jazz statunitense, ma che è specifico del jazz europeo e di quello italiano in particolare. Fin dal 1980, l'anno del suo primo disco, 79, l'anno del suo primo disco, Trovesi ha esplorato per esempio i rapporti fra jazz e musica medievale, fra jazz e danze rinascimentali, fra jazz e musica veneziana barocca, e pubblicò una improvvisazione di tipo quasi coltraniano, che si chiamava C'era una strega, c'era una fata, in trio con Paolo Damiani e Gianni Cazzola, che sembrava My Favorite Things, ma fatto sul giro della Follia. Questo brano poi Trovesi lo ha suonato molte volte, ma secondo me la versione più clamorosa è una versione del 95, in duo con il fisarmonicista Gianni Coscia. Cosa fanno Trovesi e Coscia? Prendono il giro della Follia esattamente come l'avete sentito, certamente avendo ben presente alle proprie spalle il modello di Corelli, che a sua volta, abbiamo visto, era una formalizzazione colta di una pratica popolare. Loro riportano questa pratica a livello popolare, non ignorano Corelli, al contrario, ma sono anche consapevoli di come funzionava la pratica popolare nel Cinquecento, cioè come nel jazz. Allora che fanno? Prendono il giro della follia e lo modulano, quasi direi alla maniera di Corelli, in vari stili diversi. Ci sentirete il blues, ci sentirete la musica popolare italiana, ci sentirete perfino il liscio, ci sentirete di tutto. Cioè, il giro della follia è utilizzato, come fa anche Corelli, per modulare, diciamo così, diversi stili musicali, tra musica, però aggiungendoci pure l'elemento musicale popolare italiano, oltre che quello jazz, apertamente jazz. Questa è una fusione di jazz, cioè è un'improvvisazione di jazz su un giro di musica antica. Lo riconoscete? Thank you. Ecco, trasformare la follia, cioè un giro armonico afro-mediterraneo del Cinquecento in una mazurka è alla fine veramente un colpo di genio, gli fa capire la capacità di sintesi che un jazzista contemporaneo può avere in questo tipo di, su questo tipo di repertorio, anche la cultura e al tempo stesso la libertà però di riuscire a fare un cortocircuito, diciamo così, di musiche molto diverse, comprendendo quali sono gli elementi comuni a queste musiche. Mi avvio alla conclusione e vi faccio ascoltare un ascolto, qualcosa di ancora più sorprendente. Sapete, Trovesi è un musicista italiano, bergamasco, nutrito di cultura popolare, ha studiato in conservatorio, suona jazz, quindi c'ha veramente tutto, ma non ci aspetteremmo qualcosa del genere da un compositore jazz. Nel 1989 il Festival di Roccella Ionica, in particolare il suo direttore Paolo Damiani, commissionò a uno dei più grandi compositori di jazz, George Russell, gli chiese di scrivere qualcosa sul giro della follia, perché il festival era dedicato alla musica mediterranea, e gli disse: fai qualcosa sul giro della follia. Russell scrisse questo pezzo, che nel titolo immortale, diciamo così, il Festival di Roccella Ionica, La follia, The Roccella Variations, e sentirete che praticamente anche lui abbraccia con una big band, con un'orchestra, un raggio stilistico incredibilmente ampio. Si va dalla musica rinascimentale al funky, al jazz, alla musica medievale, all'improvvisazione bop. In pochi minuti sentiremo il brano per intero, una registrazione dal vivo dei primi anni 90, non fatta al Festival di Roccella, viene fuori questo capolavoro in cui un compositore di jazz trova in quella prassi comune al jazz e alla musica popolare rinascimentale di origine afro-mediterranea, nella pratica dell'improvvisazione, anche però la mescolanza di stili diversi. Jazz, classica, popolare, qui tutti i confini saltano. Ascoltiamo la Roccella Variations sulla follia di George Russell. Non ho scritto i solisti, che sono il sassofonista Andy Shepard e il chitarrista David Fucinski. Comincia con il giro della follia. Aiuterò a seguire il pezzo che a volte, in certi momenti, sembra allontanarsi dalla follia. Vi aiuterò a seguire. E ora c'è una versione jazz. Thank you. suona il tema della follia. Thank you. tema torna con una specie di rito medievale. L'esempio di George Russell ci mostra che questa evocazione dell'antichità può assumere tante fogge, addirittura questo finale appunto da processione medievale cronologicamente sembra cozzare con l'idea che la follia invece è una danza cinquecentesca, però vi fa capire come sia associata comunque a un'idea di antichità ed è una cosa che si ritrova nei generi più incredibili. Ora, oggi vi ho già scioccato senza farvi sentire quasi una nota di jazz, abbiamo sentito Corelli, musica del Cinquecento, allora perché non concludere con una cosa che va al di là delle vostre e delle mie aspettative? C'è un po' di metal. Rhapsody of Fire è un gruppo italiano che si ispira alla, so che qui dentro ci saranno molti fan, che si ispira al Signore degli Anelli, si ispirano a quel tipo di immaginario. C'è un brano del 98, si chiama Wisdom of the King, vi rassicuro subito, non lo sentiremo tutto, sentiremo il primo minuto, minuto e mezzo, e per evocare un mondo così, diciamo, antico, arcaico, mitologico, per questo pezzo, i Rhapsody of Fire, un gruppo di Trieste, hanno introdotto il Giro della Follia. Proprio all'inizio di un pezzo metal. All'inizio fanno i bravi ragazzi. Un po' scuola di Canterbury, no? Il giro è la follia sempre. È la follia, eh? Eccetera, la sfumata è un po' brusca, scusate. In realtà questo ascolto ve l'ho propinato perché alla fine di una lezione che io feci in conservatorio su questo tema, uno studente mi guardò con due occhi così e dice: ma allora il mio gruppo preferito di jazz, cioè il corso era di jazz, dice, io conosco un gruppo metal che hanno fatto un pezzo sulla follia e lui mi ha suggerito, appunto, quindi è una, come vedete uno insegna per imparare, mi ha suggerito i Rhapsody of Fire. Siamo arrivati alla conclusione. L'ultimo ascolto dura un minuto. ed è un esempio straordinario, secondo me, di fantascienza musicale. Proviamo a mettere insieme un gruppo barocco che suona la follia in un puro stile barocco e un musicista di jazz che improvvisa in un puro stile jazzistico, perché abbiamo visto che i due mondi sono comunicanti, vengono da tradizioni molto vicine. A questo punto comincerete a capire che il jazz, per esempio, non appare dal nulla. Questa pratica di improvvisare sugli accordi, evidentemente, non appare dal nulla negli Stati Uniti agli inizi del Novecento, ma ha alle spalle una storia lunga e complessa. E aggiungo, ci appare anche più logico, per esempio, che il jazz venga così facilmente accolto in Europa agli inizi del Novecento, visto che ravvivava pratiche come quelle legate alla pubblicazione del manuale di Amat, che dovevano ancora essere diffuse, parecchio diffuse nel nostro continente. L'esperimento di Fanta Musica lo ha fatto un gruppo eccezionale, si chiama L'Arpeggiata, è un brano che peraltro non abbiamo ascoltato, L'Arpeggiata di Kapsberger, diretto da una liutista, quella che vedete con i capelli rossi a sinistra, francese, Christina Pluhar, che tra le altre cose ravviva il repertorio barocco proprio cercando i collegamenti con la musica contemporanea, e ha registrato in un disco che si chiama All'improvviso una breve improvvisazione di Gianluigi Trovesi al clarinetto piccolo sul Giro della follia. Trovesi improvvisa in chiave jazz, loro suonano in chiave barocca. Musicisti in testa non è che hanno un interruttore per cui io sono classico, stack, poi sono, no, io sono jazz, stack, io ho il cervello popolare, io ho il cervello. La musica è musica, e come vedete, se andiamo oltre le categorie imposte più che altro da un pensiero accademico, nella pratica musicale, Corelli, Trovesi, Matteo Flecia, tutti i compositori, anche importantissimi appunto come Corelli, guardano alla musica e alle pratiche musicali in modo aperto. Dobbiamo imparare a guardare in modo aperto non solo per comprendere meglio la musica e la storia della musica, vedete che abbiamo scritto un'altra storia della musica oggi, non solo a livello orizzontale, quindi cercando generi diversi e capire come si mescolano, ma anche a livello e soprattutto a livello verticale. E imparare a capire che, per esempio, tanta musica colta viene nutrita dalla musica popolare, anzi, quando diventa musica colta forse qualcosa si perde, come per esempio la vitalità ritmica della sarabanda, e qualcosa si acquisisce, come per esempio Corelli quando esplora tutti gli stili possibili dentro le variazioni della follia, portando l'improvvisazione dentro la composizione. Ecco, se noi impariamo ad abbattere queste barriere a livello orizzontale e a livello verticale, credo che capiremo meglio la complessità non della musica, ma di tutte le musiche al plurale. Grazie.